Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Adesso tutti concentrati, mettetevi comodi e cominciamo. L'attesa è finita. Attenzione al gioco. Clichy preferisce l'appoggio per Nasri. Nasri, zona tiro, Nasri prova! E c'è un gol incredibile! Gol incredibile di Nasri, imprendibile il pallone, siete in partita. Jovetic, gran classe anche per lui, Nasri, sta arrivando Zabaleta, Nasri, finta, Zabaleta al volo, rete, che gol, ancora una volta un gioiello di Nasri. City è una squadra forte, lo sappiamo, se non c'è Silva c'è Nasri, o se non c'è Agüero c'è Dzeko, è così, peccato perché durante il primo tempo, la prima ora di gioco, abbiamo giocato il nostro gioco, ma forse mancava un po' di sostegno ai nostri attaccanti, soprattutto a Gervinho. Dobbiamo migliorare ancora alcuni punti, dobbiamo migliorare anche la rosa per lottare a questo livello. Per il momento non è il nostro livello, è tutto normale, visto i fatturati dei due club, tutto normale. Normale neanche tanto, caro Garcia, forse è ora di crescere, di fare quel passo che porterebbe la Roma dall'essere una squadra molto bella, molto elogiata, all'essere una squadra finalmente vincente. Alla ripresa delle coppe avremo in Champions League lo stesso numero di concorrenti, lo stesso numero di squadre di Portogallo, Svizzero e Ucraina, cioè una. Franco Piantrini, il nostro autore, Gianmarco Ferronato, della regia, Daniele Buonamici in redazione e Pierluigi Pardo qui con me. Ciao Pier. Come va? Poteva andare meglio, come per la Roma, Questo è il salto. Ancora troppo leggera per queste partite, per questi avversari. Garcia si appella al fatturato e anche alla sfiga, non l'abbiamo sentito ma in questo estratto, ma lui ha detto è un palo dentro, un palo fuori, è un po' di sfortuna, forse sarebbe il caso di crescere, Sì, vabbè, ma insomma non mi sembra che abbia fatto delle dichiarazioni così sconvolte dalla sfortuna. È chiaro, è evidente che insomma c'è stato anche quello. Poi in assoluto il City è più squadra, è più smaliziata. Ieri sera l'ha dimostrato, senza due giocatori straordinari, tra l'altro, come Yaya Touré d'Agüero, e la Roma rimane convinta di impianto. Questo non ci sono dubbi. Detto questo, insomma, il cammino europeo di questa squadra è stato forse migliore delle attese, insomma, partita dalla quarta fascia con la speranza alla vigilia di poter lottare per un posto in Europa League. Diciamo che la prima vittoria contro il CSKA e il pareggio contro il City a Manchester avevano illuso. Dopo due partite ha chiuso con 5. Volevo fare il divino Telma, ma io dopo la seconda partita avevo detto che tanto si capiva che sarebbe arrivati all'ultima, ma non è che lo dicevo io, era proprio abbastanza ovvio guardando i numeri. La Roma è arrivata in una strana situazione a quell'ultima partita con lo 0-0 che bastava. A me il City ieri non è che proprio mi abbia fatto impazzire. No, nemmeno me. Poi il City doveva provare a segnare, secondo me. Il primo tempo è stato abbastanza sconcertante, poi però ha avuto ragione perché alla fine i campioni spesso fanno la differenza a questi livelli. Sì, ma questo può essere un aggravante però per la partita della Roma, no Pier? Cioè il fatto che il City comunque non aveva la sua superstar, cioè Agüero, non aveva Touré. Però io ti dico onestamente, il discorso dei fatturati, vedi che ormai fa scuola, no? Da Benitez a Garcia, però non è sta diventando un bel paravento. No, cioè secondo me il Napoli se non arriva terzo è un fallimento, lo dico con chiarezza, ha la tecnica, ha la forza per essere fra le prime tre sicuramente. La Roma per eliminare il Manchester City doveva fare un capolavoro, ha fatto un buon inizio e poi alla fine però ha vinto la squadra più forte e più economicamente e tecnicamente dotata delle due. Direi amen. Adesso la Roma ha cominciato, secondo me, la sua vera stagione, ha acquisito esperienza. In Europa League, ammesso che voglia giocarla e non considerarla come una seccatura, secondo me può fare molto bene. È chiaro che è seconda fascia, ma insomma non è detto che pescherà per forza un'avversaria particolarmente proibitiva. E poi deve concentrarsi sul campionato, che secondo me è il vero obiettivo. Importante. Io ti dico, con una provocazione, ti dico che la vera brutta notizia, secondo me, della ultima quattro giorni romanista sarà il 2-2 in casa col Sassuolo. Sì, è chiaro che la sconfitta col City costa 12 milioni di euro, sì. Non sono bruscolini, però secondo me, in assoluto, dal punto di vista strettamente tecnico, la partita dove veramente ha buttato via un'occasione, la Roma è stata certo. Un suono. Beh, ma lì torna a valere la domanda, la Roma arriva lì, arriva al punto, arriva al dunque e poi non riesce a fare quel passo che la porterebbe a cambiare dimensione. Abbiamo il traffico, intanto per puro caso ho acceso la TV sul TG3 Regione e c'erano le immagini dall'alto della zona, poi parleremo anche di questo, della zona a due passi da qui, peraltro da Sole 24 Ore, da Radio 24, in zona fiera dove dovrebbe, si legge oggi dappertutto, sorgere il nuovo stadio del Milan, accanto alla sede, zona Portello, zona fiera. È stato fatto questo accordo con l'ente fiera e quindi si legge, si scrive, si dice 2016 cominceranno i lavori, nel 2020 al massimo il Milan dovrebbe avere una nuova casa tutta sua. Ne parliamo dopo. 800 24 00 24, traffico. Possiamo dire che hanno più maturità, hanno più esperienza di queste grandi partite. Noi impariamo, dobbiamo migliorare su alcuni punti, sul fatto di avere ancora dei giocatori più forti se vogliamo raggiungere delle squadre di questo livello. Tutti convocati. Se vogliamo giocare a Champions League, che è il vero obiettivo della Roma, bisogna fare un grande campionato e soprattutto bisogna essere pronti per domenica. Questo che mi aspetto dei miei giocatori, io farò in modo di togliere la loro testa questa delusione. Ci sarà l'Europa League da giocare, che è adesso una Coppa Europea di alto livello, ma è vero che l'obiettivo principale è rimane il campionato. Ecco, adesso tutto sullo scudetto. Penso di sì, dai. Abbiamo ammissato anche l'Europa League, sì, no? Sì, quindi sì, dai, quindi cerchiamo anche di andare più avanti lì, onoriamo quella. Penso che siamo sempre in corsa per altre tre competizioni, quella più bella siamo usciti, però penso che abbiamo fatto una bella campagna perché penso che nessuno avrebbe detto che ci saremmo giocati fino all'ultima partita. Una volta che non vinciamo una partita, o in questo caso l'abbiamo anche persa, dobbiamo pensare che c'è un dramma nella città, non andiamo da nessuna parte. Nessun dramma, però anche un passo indietro, insomma, significativo, è un'ambizione importante quella della Champions. No, non sono affatto d'accordo, non è un passo indietro. La Roma partiva in questa Champions League dalla quarta urna, sapevamo che avremmo trovato un girone difficile, probabilmente abbiamo trovato non difficile ma difficilissimo. L'abbiamo affrontato al viso aperto con le nostre possibilità, non credo che abbiamo sfigurato, siamo arrivati all'ultima giornata del girone in grado di giocarci la qualificazione vincendo, ma dovendo battere una squadra come il Manchester City, che è il campione della Premier League, quindi non era certo un'impresa facile. Credo che la Roma abbia dimostrato di essere in grado di giocarsela questa partita, poi è evidente che di fronte a certi campioni si può perdere, quindi non c'è nessun dramma, spero che la città non viva come un dramma uscire all'ultima giornata di un girone così. Questo era Baldissone, avevamo sentito prima Nainggolan e Garcia. Nessun dramma, va bene, però tra il dramma e una sana incazzatura per ciò che poteva essere non è stato, alla fine si può anche trovare una giusta via di mezzo, che non è che non è un dramma, va bene, ma non è che bisogna fare la festa con le bandiere oggi a Roma, secondo me, Poi no. Oggi è anche Pierre, è anche il giorno dei gufi, Pier Giorgio, secondo me il terzo gol di Totti era viziato da un fuorigioco di partenza, il pronostico di Mister Pallotta. Diciamo 3-1, tripletta di Totti alla faccia della scaramanzia. Oppure grande Garcia, grande Roma, sarà stata colpa dell'arbitro, del sistema o certi episodi di gioco devono essere interpretati tra virgolette come vuole Garcia, scrive un altro ascoltatore. Insomma, va benissimo. Sì. La parte dello sottotono. Io credo che insomma, il giorno dei gufi bianconeri ci sta. Dai, stamattina sono andato al solito bar a bere il caffè e c'è il proprietario juventino Marcio con la cravatta del Manchester City, sì. Quella forma di aereo? Di aereo, con la cravatta del Manchester City, hai capito? Mi ha fatto vedere, messa la cravatta, Juventino Marcio, poi... Poi c'è questa cosa che oggi sono le radio sul campo della Lazio, ma questo era già previsto. Sì. La seduta alle faticanze del giovedì mattina sulla Formello. Tra due ali di folle esultante. Ma questo fa parte. Stato visto anche Cruciani, tra l'altro. Parte della vita, ci mancherebbe altro ed è una cosa sana. Vogliamo lo sport al calcio, vogliamo 50%, quindi su questo non ci sono proprio discussioni. No, in generale mi sembra che appunto la Roma non deve fare un dramma, soprattutto perché conosciamo l'ambiente di Roma, che è un ambiente straordinario delle esaltazioni e qualche volta invece che pecca nella depressione nei momenti difficili. E bisogna trasformare questa delusione in fierezza, secondo me, da parte della Roma, in energia positiva per un campionato dove tutto è ancora possibile. Ma ribadisco, la formazione titolare, io forse da qua è facile, l'avrei messa col Sassuolo, nel senso che secondo me l'obiettivo tecnico della stagione della Roma è sicuramente più il campionato della Champions. Sì, ma non si poteva fare, anche qui non si poteva trovare una via di mezzo, cioè col Sassuolo devi vincere di sicuro, però hai di fronte questa partita con il City che vale 12 milioni di euro, cioè voglio dire, sì, va bene il turnover, il riposo, eccetera. Poi c'è di mezzo anche il Sassuolo che non perde da 8 partite. Bravo, c'è di mezzo anche il Sassuolo, perché, certo. Non regala niente a nessuno, giustamente. Che vale più della sua classifica, sicuramente, quindi, ma insomma, ripeto, io penso che tutto alla fine sia andato in una direzione che ci stava alla vigilia, anzi probabilmente qualche tifoso della Roma all'inizio avrebbe addirittura firmato il terzo posto nel girone, no? Quindi comunque la possibilità di continuare in Europa League, a patto che uno poi voglia giocarsela, perché il vero paradosso è questo, mi sembra che gli italiani stiano facendo un passo avanti. Stasera, se il Torino passerà il turno, noi avremo 5 squadre, l'unico paese ad avere ancora 6 squadre su 6. C'è squadre su 6, 5 in Europa League. Carrapa, l'abbiamo detto, c'è Carrapa un'altra cosa, non ci sono dubbi, però è evidente che qualche segnale di crescita c'è, e quindi benedetto in questo momento della stagione. E poi la Roma, secondo me, rientra in quella categoria di squadre come il Napoli, come l'Inter, a maggior ragione se guardiamo la classifica del nostro campionato, se l'Inter o il Napoli vogliono vincere l'Europa League, perché non deve pensare di poterla vincere la Roma, a patto che voglia fare la partita e non voglia invece fare ampio turnover. Da un punto di vista di energie e di impegno, l'Europa League è ancora più stancante della Champions perché ha un turno in più, quindi hai tecnicamente due partite, a febbraio e marzo ne hai due in più. Sì. In quel momento lì potresti risentire, e abbiamo visto che comunque la Champions qualcosa ha tolto sia alla Juve che alla Roma. Questo non c'è dubbio, era comunque pronosticabile. In questa, quella che Champions League, mi piace moltissimo la definizione usata oggi da Alessandra Bocci sulla Gazzetta dello Sport, competizione rigidamente classista, fa notare Alessandra Bocci, perché sorprese alla fine in questa prima fase non ce ne sono state, se si eccettua Basilea che ha fatto la festa al Liverpool. Poi la Germania porta le sue 4 squadre, la Spagna ne ha 3, l'Inghilterra 3, la Francia 2, Monaco molto bene, ha vinto anche il suo girone, e poi Porto, Basilea, Shakhtar e l'unica sopravvissuta, la Juventus. 800 24 00 24, numero verde. Poi ti voglio chiedere anche un voto per Garcia nella gestione di questo spicchio di stagione, perché a me non è piaciuto col Sassuolo e nemmeno a te l'ampio turnover, ma non mi ha convinto fino in fondo nemmeno la squadra di ieri sera. Però prima Luca da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. È una premessa, io sono juventino. Oh, giorno dei gobbi, giorno dei gobbi, ma anche dei gufi. A livello sportivo mi dispiace, nel senso che comunque bisogna ammettere che la Roma è una bella squadra, è una squadra forte, è divertente a vedere quando gioca. Dall'altra parte, onestamente, sono contento un po' per la presunzione che hanno. Che hanno i giocatori, che ha il suo mister, che forse è anche di natura presuntuosa. E onestamente mi piacerebbe, perché sicuramente ne avete le capacità e siete bravi in questo, mi fate risentire il chiaroveggente che dopo il secondo turno aveva detto la Juve in Europa League e la Roma passa seconda, no? Perché questo qua è proprio un fenomeno, vorrei proprio risentire. Chi era? Era un romano che aveva chiamato, diceva: io prevedo la Juve fuori Europa League e noi passiamo come secondi. Se hai il coraggio, richiami, magari ci faccia qualche altro pronostico. Che pronostichi, che so, la vittoria del campionato della Roma. Guardi, io sono stracontento se la pronostica. Arrivederci, sì. E auguri di buone feste. Grazie, Luca. Non lo so, io non me lo ricordo, tu, Pier. No, neanche io me lo ricordo. Io neanche, ma se vuole replicare, siamo qua. 800-24-0024. Volevo chiederti prima di Giorgio, dimmi. Sì, vai. No, dico, sentiamo talmente tanti di pronostici. Quindi assolutamente, insomma, ci sta. Secondo me, in assoluto, se torniamo al punto di partenza, il secondo posto della Juve e il terzo posto della Roma nel girone sono abbastanza simili visto il punto di partenza, perché la Juve in questi anni è cresciuta tanto. La Roma è presuntuosa, come dice l'ascoltatore Garcia, è presuntuoso. La Roma, se posso, se mi passi una battuta, la Roma, Roma è una piazza particolare. È una piazza innamorata, è una piazza eccezionale, è una piazza che si gasa e che tende a... Sì, ci possono essere anche gli atteggiamenti spacconi, no? Che nascono proprio da questo grande affetto, dal fatto che la gente si commenta, si esalta, che la squadra di calcio diventa veramente una ragione di vita per tante persone. Ci sono 500 radiolocali che parlano di Roma 24 ore al giorno, lo fanno con tanto amore, tanta passione. Questo delle volte poi nei momenti positivi può portare a degli eccessi, che poi visti da Torino, visti da Milano, vengono facilmente scambiati come presunzione e probabilmente intendo la squadra, intendo Garcia, è stato presuntuoso nella gestione di questo momento? Mentre tanto cadono Giubbotti, e io siccome sono informatore civico, sì, c'era una presa Giubbotti, gliel'ho detto, anche se siamo in diretta, però apprezzerà che almeno non ha perso Giubbotti, ma non so se è stato presuntuoso, secondo me l'altro giorno è stato presuntuoso. Quando? Roma-Sassuolo. Roma-Sassuolo è stata approcciata male, non so se è stato presuntuoso lui, se è stata presuntuosa la squadra, però Roma-Sassuolo è stata veramente una cosa, secondo me, brutta vera per come la squadra ha approcciato una partita nella quale doveva cercare di sbranare gli avversari, perché aveva un'occasione enorme. Certo, vai a uno dalla Juve, dai. Vai a uno dalla Juve, ma che poi hai visto mai a un punto dalla Juve, magari affronti emotivamente anche meglio la partita di ieri sera, non lo so, sono tutte congetture, supposizioni. Giorgio da Prato, prima della borsa, buongiorno. Ciao ragazzi, io sono tifoso della Fiorentina, ma ho un paio di cose sulla Roma, una sul girone di Champions e una in prospettiva campionato. Gufo o non gufo? Sul girone non troppo, non faccio il tifo per, ma neanche gufo, diciamo, no? Due cose: intanto non sono d'accordo sul fatto che abbia fatto un buon girone in Champions, perché è arrivata a terza come doveva, ma quelle due partite, la prima con i 7 gol presi, la seconda dove si è consegnata al Bayern in maniera indecente, e secondo me non è stato un buon girone. E la seconda è, non ditemi, ci siate obiettivi, non ditemi che la Roma di quest'anno vi dà la stessa impressione di solidità che vi dava la Roma dell'anno scorso. Ecco, esatto. Quindi secondo me la Roma deve anche un po' darsi un'occhiatina alle spalle, a mio parere. Alle spalle non c'è nessuno, secondo me, Giorgio. Ma non lo so, ne riparliamo fra 2 o 3 mesi. Sì, sì, ma volentieri, però veramente alle spalle non c'è nessuno, ma non per merito particolare. Credo che la Roma sia superiore alle inseguitrici, anche perché le inseguitrici hanno fatto un bellissimo Chapanò. Per me il Napoli ha la potenzialità almeno di competere a quel livello lì, ma insomma, si butta via talmente tante volte che poi alla fine vuol dire che evidentemente quella qualità non ce l'ha, perché avrà quella qualità offensiva e avrà dei picchi eccezionali di gioco, come per esempio nello scontro diretto contro la Roma, però poi se 2 volte su 3 si perde in casa contro squadre piccole con errori difensivi, alla fine poi non va da nessuna parte. E non te lo meriti neanche. Ecco, sì, appunto, o cambia strada oppure rischia di rimanere invischiata lì. sicuramente è meno solida la Roma rispetto all'anno scorso, ma ha perso, signori, non ci dimentichiamo, ha perso Benatia, ha venduto l'ultimo giorno del mercato e ha perso Castan, al quale auguriamo ogni bene, ovviamente in cose molto più serie. Insomma, non è un dettaglio questo. Poi Manolas sta facendo bene, Yang Ambiwa ha fatto benino, però insomma è una squadra rivoluzionata rispetto all'anno scorso, è una squadra che ha, secondo me, ancora un grande talento offensivo, ha una forza a centrocampo comunque importante, perché Nainggolan è un giocatore compiuto, maturo, fortissimo, Pjanic ha dei colpi di genio eccezionali, De Rossi con degli alti e bassi, però rimane uno che tutti gli allenatori vorrebbero avere, insomma, quindi la qualità secondo me c'è ed è giusta. Deve concentrarsi, sicuramente sarà un po' distratta dalla Champions League, forse non gli ha fatto neanche troppo bene quella partenza in carrozza in Champions, ecco, forse la presunzione di cui parlava l'ascoltatore prima è dovuta al fatto che la Roma è iniziata la stagione in maniera quella larghissima vittoria con il Cesc, e poi eppure quello fa parte del girone, perché è vero che ci sono stati 7 schiaffi in casa col Bayern, ma c'è stato anche il fatto che la Roma ha fatto 4 punti e potevano essere 6 con una squadra CSK che comunque fino a ieri è stata in corsa e che ha fatto a sua volta 4 punti contro il City. Sì, poi puoi anche guardare che è passato il City, che è stata l'unica che ha battuto il Bayern. Si possono guardare diverse, insomma, vedere diverse angolature. Ti do appuntamento dopo la borsa con questo messaggio SMS. Senti qua. Vorrei pronosticare che hai posteggi, non sorteggi, ma posteggi, esce Juve Bayern, scrive un ascoltatore. 349-238-6666. Ai posteggi esce Juve Bayern. Tutti convocati. Però dico una cosa impopolare, alla Roma farebbe meglio di uscire da questa coppa, non andare avanti, nel senso che per il campionato lo sta dimostrando giornata dopo giornata, ogni volta che gioca il sabato in anticipo fa partite brutte, ha giocato male a Empoli, ha giocato male col Verona, ha giocato male a Genova con la Samp, ha giocato male col Sassuolo, ogni volta che c'è la Champions la Roma perde energie mentali, perché secondo me ha pochi giocatori abituati a quel tipo di discorso di giocare ogni 3 giorni e ha poco l'idea del fatto che in campionato la Roma è una protagonista assoluta, il Champions League è una comparsa, cioè la Roma non può giocare contro Bayern Monaco, Barcellona, Real Madrid e Chelsea, quindi non può mai vincere la Champions League, quindi il concetto è il campionato lo può fare la protagonista, la Champions no, ha più senso vincere col Sassuolo e pareggiare col City che pareggiare col Sassuolo e vincere col City. Questo era il parere di Riccardo Trevisani di Sky l'altro giorno ai nostri microfoni. Io non sono così d'accordo, cioè secondo me la Roma avrebbe avuto la possibilità, ha avuto la possibilità e l'ha sprecata, l'ha buttata alle ortiche, di andare avanti anche in Champions League, che poi si trovi in Europa League, che la giochi o non la giochi è comunque un impegno europeo che la porterà a viaggiare, ad allenarsi di meno, eccetera, eccetera, eccetera. E detto questo, non avrà nemmeno quella dozzina di milioni che il passaggio del turno avrebbe garantito. Allora, tra il più critico di tutti oggi, leggendo i giornali, è certamente il direttore del Corriere dello Sport, Paolo De Paola, che scrive tra le altre cose questo: la Roma è uscita dalla Champions League per leggerezza, la stessa irritante impalpabilità che l'ha inchiodata a un pareggio incredibile a Mosca, dove non sono stati gli errori concreti di un portiere o di un centrocampista a determinare la tassia di una formazione completamente scoordinata, ma la presunzione di aver già conquistato qualcosa che non era per nulla sicuro. Cara Roma, devi convincerti che non basta più dirti quanto sei bella, per 10 vittorie di seguito non serve a nulla correre sotto la curva a raccogliere l'applauso dei tifosi, cosa che, inciso, è accaduta anche ieri sera, e vinceremo il tricolore e tutto quanto. Non è sufficiente riempirsi la bocca con l'internazionalizzazione del brand, se non si sente, come si sente dire da tempo, se non si ottengono risultati significativi, e le vittorie si raggiungono attraverso la perseveranza, la capacità, la grinta, la cattiveria agonistica. La partita contro il Manchester City è la riprova di quanto sia bella e vuota allo stesso tempo questa squadra. Direttore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Confermi tutto? Pardo sta tornando, confermi tutto? Confermo tutto, ma vorrei anche spiegare che non è che si butta il bambino con l'acqua sporca. Cioè, finora la Roma ha fatto tanto, cioè in 2 anni si è rimessa in carreggiata dopo l'esperienza, diciamo, di 2 esperienze in panchina sicuramente non esaltanti, però io sono convinto, come hanno dimostrato tante altre società e squadre, che è un luogo comune dire che la mentalità vincente si ha nel DNA. Credo che sia una stupidaggine. La Juventus con Conte, che usciva da 2 settimi posti, ha vinto 3 scudetti di fila. Se praticamente si stabilisce, io vedo che sia un discorso di mentalità oltre che di preparazione, oltre che di scelta di uomini, sicuramente, che può fare la differenza. La Roma al momento non ha una panchina tanto lunga, tanto è vero che nel momento in cui Garcia ha cercato di fare il turnover non è riuscito a farlo, quindi bisogna rivedere anche un pochettino l'organico. No, mi sembra discretamente profonda però il direttore, perché ieri stavano in panchina De Rossi, Destro, Iturbe, costato una montagna di soldi, poi discutiamo sul valore assoluto di questo giocatore che ancora non ha dato nulla, però insomma ieri la panchina della Roma era... Non era disprezzabile, e comunque se si vuol crescere, non come tu scrivi, non può essere accettabile fino in fondo nemmeno un discorso sui fatturati o sul palo dentro, palo fuori, come fa Garcia. Beh, assolutamente no. Innanzitutto il discorso sui fatturati, io pongo sempre l'esempio dell'Atletico Madrid, 119 milioni di fatturato, ed è una squadra, è una società che sono ormai stabilmente nell'Olimpo del calcio europeo, quindi ecco, lì è un luogo comune che cade, tutto in un campionato per l'Atletico Madrid ben più impegnativo rispetto a quello italiano, perché lì almeno sicure competitrici ce ne sono due, qua invece a volte il Napoli viene meno, quindi è soltanto la capolista Juventus la competitrice in campionato. Senti, la Roma fin qui non ha ancora vinto una grande partita con la pressione addosso. Questa Roma di Garcia, questa Roma così bella e, se vogliamo, come tu dici, così fragile al tempo stesso ancora. Non ha cattiveria, è una squadra che si compiace di quello che fa, si accontenta. È come, io faccio sempre l'esempio, è come quei tennisti italiani che a volte sono i re del loro circolo privato e che poi, usciti dal loro circolo, sono niente. E questa è la mentalità, cioè riuscire a vincere anche nei minuti finali, riuscire a guantare una vittoria per quanto brutta nella partita, ma fondamentale nella dimensione numerica. Beh, insomma, questo la Roma manca. La Roma non ha sfruttato tre occasioni all'inizio della partita, si è compiaciuta in quel suo gioco, poi alla fine il Manchester City è sempre una formazione che sulla carta ha più qualità della Roma e quindi ti tira fuori il gioco con un giocatore che non segna mai, Nasri, per esempio. Quante colpe ha Garcia in questo, secondo te? Poi possiamo discutere anche dell'opportunità ieri di comporre così quella panchina che abbiamo detto, no? De Rossi e Destro, ma perché non prima? Dimmi, Pier. No, ecco. Io dico, a proposito del discorso che diceva per esempio prima sull'Atletico Madrid e il fatturato, innanzitutto l'Atletico Madrid ha giocato e vinto l'Europa League, cioè ha fatto un suo percorso in questi anni attraverso i risultati in Europa League. È arrivata a vincere la Supercoppa Europea, poi è cresciuta, è arrivata in finale di Champions, è arrivata a vincere la Liga, quindi anche in quello noi dobbiamo, secondo me, prendere l'esempio, essere meno snob e cercare di vincere intanto le partite, visto che non vinciamo coppe da troppo tempo, e questo secondo me è un elemento. Poi in generale io penso che sia un po' dura l'analisi del direttore, però è molto sana, diciamo che è didattica, è terapeutica, perché lui, che poi ha conosciuto sia l'ambiente di Torino che quello di Roma, sa la differenza qual è? La differenza è nella visibilità continua, nella passione continua, non che a Torino non ci sia passione, c'è, assolutamente, ma insomma a Roma si vive continuamente di questa squadra, soprattutto di questa squadra, anche di Lazio. Vuoi che alla fine ha ragione Pavel Nedved, che ha spruzzato benzina sul fuoco dicendo: di risposte ai romani ne abbiamo già date tante, parliamo meno di loro ma lavoriamo di più e i risultati si vedono. Parole musica di Pavel Nedved, ne parliamo con Pardo e con il direttore del Corriere dello Sport, Paolo De Paolo, subito dopo il traffico. Buongiorno a tutti, notizie del traffico, dobbiamo dare la linea al traffico, pensavo ai tempi vostri. Convocati. Direttore Paolo De Paolo, cosa ne pensi di quanto stavamo dicendo? Beh, insomma, io devo dire che la questione dell'ambiente è fondamentale, non per richiamare un allenatore che sicuramente ha vinto a Roma, ma non ha lasciato grandi ricordi di simpatia. Capello. Però, Capello, esatto. Cioè, io credo che alla fine poi conti più che altro il risultato, perché Capello lo ha detto e lo ha ribadito: se io la squadra riesco a tenerla lontana, fuori da una determinata dimensione, sicuramente posso ottenere dei risultati, ma questo vale a Roma come vale a Torino, come vale in qualunque altra città, probabilmente in una città che è la capitale d'Italia, che esprime tantissime personalità, tantissime emozioni, quindi tantissime discussioni, è più difficile fare questo lavoro. E quindi su Nedved? Ha ragione lui? Quando dice? Dimmi, Pier. Sembra una cosa quasi leghista, paleoleghista, perché altrimenti i leghisti vogliono più la successione io insomma gente ne conosco nel mondo, non è che ci sono queste generalizzazioni, secondo me sono sbagliate, cioè ci sono dei grandi lavoratori al nord e al sud, ci sono persone a Roma che lavorano tanto e persone a Milano che lavorano poco e ovviamente viceversa, quindi secondo me non è questo. Dal punto di vista, secondo me, delle pressioni della città, degli umori, dell'affetto, sicuramente, ma questo basti sentire Capello che ha allenato in tutte e due le realtà, o chiunque abbia vissuto le due esperienze, sicuramente Roma è più impegnativa. È più impegnativa perché paradossalmente è più calda. E quindi c'è una richiesta continua di affetto, di attenzioni e ci sono forse anche più distrazioni rispetto ad altri contesti, sicuramente. Sì. La Juventus diventa fenomeno più facilmente che a Torino. Tra le due, in questo momento, per quanto riguarda il primo turno di Champions, di pressione ne va di più la Juventus, perché sappiamo bene come uscire al primo turno per la Juve sarebbe stato un fallimento. Per la Roma siamo qui a dire, vabbè, è una squadra che però deve crescere, è una squadra che forse è ancora fragile, che forse è un po' presuntuosetta, tutte queste cose. Un altro argomento, poi salutiamo il direttore del Corriere dello Sport, Totti. Fa molto discutere oggi, fa discutere l'esclusione di De Rossi, io credo, al netto delle vicende personali che contano, in cui è stato coinvolto in questi giorni, era sereno, tutto quanto, però escluso mi sembra 3 volte nelle ultime 4 partite, e in una gara come quella di ieri sera tenere in panchina De Rossi, secondo me è tanta roba. E poi Totti, che oggi qualcuno tra le righe anche scrive forse non è più cosa per lui un calcio di questa intensità anche fisica. Noi abbiamo scritto più volte che Totti è, come dire, il limite massimo e minimo della Roma, nel senso che senza di lui la Roma ha un'altra personalità e anche un'altra caratura. Quindi bisogna, in questo momento è un giocatore intoccabile, non credo che si possa mettere in discussione ancora. Lui non sta avendo un declino professionale, è normale, legato alla sua età, ma quando sta bene probabilmente deve essere usato come lo usa Garcia, per meno minuti, un'oretta al massimo, oppure farlo entrare in corsa. Invece sulla questione De Rossi sono più deciso, cioè io non entro mai nel merito di questioni mentali che ci possono essere o personalità. Però secondo me la questione è che Keita in determinati momenti è migliore di De Rossi. È probabilmente una scelta tattica, una scelta tecnica che l'allenatore fa e sulla quale noi non ci sentiamo di dargli torto. Tu, Pier, come la vedi? Ma allora, sul centrocampo della Roma, secondo me alla fine è il reparto migliore della squadra. È il reparto che ogni partita prescinde inevitabilmente da un giocatore di altissimo profilo. Perché Keita lo è, Nainggolan probabilmente il più continuo di tutti, Pjanic ha dei colpi di genio e De Rossi è anche lui un grande giocatore, quindi se non avesse giocato, se avesse giocato De Rossi, non avesse giocato Nainggolan, non avesse giocato Pjanic, non avesse giocato Keita, si poteva fare lo stesso identico discorso, secondo me una rotazione a 4 per 3 maglie fra 4 grandi giocatori, quindi insomma non adesso è andata così e allora fa notizia, ma insomma mi sembra una roba abbastanza normale, o comunque che può succedere, che può capitare. Su Totti è una leggenda, è chiaro che è un giocatore che chiaramente non ha più 25 anni, è un giocatore che dal punto di vista simbolico, oltre che tecnico, per la Roma rappresenta tantissimo, è un giocatore che ancora spesso riesce ad abbagliarci, per esempio nella partita d'andata contro il Manchester City con delle magie. È ovvio che Totti in una grande squadra oggi con l'età che ha deve essere un lusso, deve essere la ciliegina della torta. Certo. È anche un ambiente in cui però è difficile tenerlo fuori, e anche Totti non è uno che lo tieni fuori e lui sta buono, perché dai, diciamoci la verità, è condizionante come tutti i grandi campioni, come tutte le bandiere, come l'era del Piero, il direttore lo sa bene, lo è anche Totti, insomma non è uno semplice da tenere fuori, e questo è, con questa realtà bisogna fare i conti. No, ma voglio dire, Ryan Giggs a fine carriera era uno era uno che non è che fosse il giocatore più importante della squadra, cioè le grandi leggende, le grandi bandiere, sicuramente Totti è tra questi, non c'è discussione, nessuno non lo possa discutere dal punto di vista tecnico per la carriera che ha fatto. È normale però che è arrivato a questa età, e è normale, come dice spesso Totti, arrivato a questa età è ovvio che deve essere un giocatore che si può dare il colpo di talento, ti può dare la grande partita una su due, ma una sicuro, su tre, ma non può essere un giocatore sicuro per il minutaggio. Poi lui è talmente forte che riesce spesso a illudere, no? Perché per esempio ha cominciato questa stagione in una maniera eccezionale, e quindi però poi ci sarà sempre, cioè, è fisiologico, sarebbe assurdo che la Roma dovesse contare ancora su un giocatore di questa età come un totem imprescindibile che deve giocare sempre con lo so. Un giocatore da centellinare, lo so, perfetto, ma anche del famoso anno di Capello, quando Del Piero si arrabbiava tantissimo, non era ancora così anziano, no? L'anno dello scudetto con Ibrahimovic, prese che, insomma, alla fine c'erano delle alternative e Del Piero spesso si arrabbiava, era ancora un giocatore straordinario, era ancora nel pieno della sua carriera. Certo, la differenza è che a Torino Capello poteva farlo e poi vinceva, a Roma non so se Garcia possa permettersi questo discorso, direttore. Esattamente questo è il punto, cioè con Del Piero la Juventus riusciva a vincere anche senza la sua presenza in campo. Al momento, per questo dico, limite meraviglioso, ma è sempre il limite, la Roma non può fare a meno di Totti, del miglior Totti, e quindi è chiaramente in condizioni, come dire, di età che a volte permettono di essere sempre al massimo e al meglio, lui rappresenta l'apice di questa squadra, ancora oggi. Grazie direttore, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie Paolo De Paola. Luca da Bologna, poi salutiamo Pierluigi. Dica Luca, buongiorno. Buongiorno a voi. Intanto... Tanto? Siete una straordinaria compagnia, anzi io grazie. sono per pagare l'abbonamento, se mi dite dove pago Confindustria per la vostra trasmissione. Ma no, paghi direttamente noi, adesso con tutto. Diamo l'Iban senza problemi. Mi accorgo di spostare le riunioni di lavoro per ascoltarvi, vabbè, non lo farò più. Siete perfetti, però siete anche un po' democristiani. Perché non dite che ieri Roger Totti ha fatto una partita orribile? Non sì, tutto girato. Lo diciamo, non lo dite come va detto, avete anche una funzione, come diceva prima, pedagogica, no? Insomma, non può giocare partite così, punto. Non dite che è il punto avanzato, che è la cosa, che qui. Ma l'andata ha fatto gol perché il portiere è scivolato, lo diciamo o no? Insomma, e poi va benissimo, cioè, certo l'andata ha fatto una partita di, ma era evidente che la partita di ieri non sarebbe stata paragonabile a quella dell'andata, o no? È vero o no? Ma io sono un tottiano convinto, dalla prima ora, però avanzo dei dubbi sul fatto che, insomma, ieri Totti ha giocato male, certamente, ed è stata una roba molto evidente, è stata una cosa molto evidente la pessima partita di Totti, una delle ragioni per cui la Roma ha fatto così fatica. C'era destro in panchina ed è appunto una domanda che ci stiamo ponendo. Poi probabilmente ha ragione De Paolo quando sì, dice destro, Totti. Destro, ragazzi, col Sassuolo ha fatto una partita orripilante, almeno sì. Altrettanto orribile. Sì. Allora, io non voglio dire, non è questione un po' più bella, ma un po' fa. Io penso che è evidente che Totti è un giocatore non più giovane e certi ritmi fa fatica praticamente a sentirli, e certe partite le interpreta meglio, certe partite le interpreta peggio. Ieri ha giocato male, sicuramente col senno di poi possiamo dire che è stato un errore schierarlo perché ha giocato male. Detto questo, ci sono state altre partite della stagione le quali ha fatto bene. Il tema complessivo ambientale a Roma è come gestire il normale fisiologico invecchiamento di un campione che è stato un fuori classe assoluto, e che è più del fuori classe, perché è un simbolo, cioè un altro come Totti a Roma, auguriamo ovviamente che nasca prestissimo, ma forse fra 50 anni ci sarà un altro. Quindi stiamo parlando di una cosa che nella leggenda di una squadra grande, importante come la Roma, ma che comunque non è che ha vinto 35 scudetti, è ovvio che uno come Totti fa la... Ma possiamo discutere sul fatto anche se sia il più forte giocatore ogni epoca del calcio italiano, perché può essere un tema di discussione, l'abbiamo anche fatto. Io stravedo per Totti, la vera domanda è: può Garcia permettersi, Roma, Manchester City, ti giochi la Champions League, di tenere fuori Totti? Secondo me la risposta è no. Pier, ci sentiamo domani. Ciao ragazzi. Ciao, un abbraccio. Sera al Napoli, Napoli. Sera, è chiaro. Sera a Napoli, Italia 1 con Pierluigi Pardo, in uno stadio che non si preannuncia quello delle grandi occasioni, peraltro. Bad Corner, GR, poi di nuovo qui per un'altra ora, 800 24 00 24. Quote e pronostici. Giovedì di Europa League con in campo 4 italiane. Si parte alle 18 con l'Inter imbottita di riserve e già qualificata come prima, che gioca in Azerbaijan sul campo del Karabag. Vediamo dunque assieme le quote SNAI per questa partita. L'1, il successo degli azzeri, è quotato 2,15. L'X come il 2 sono quotati 3,35. Alle 19 il Toro cerca il pass per i sedicesimi in Danimarca contro il Copenaghen. L'1, il successo dei danesi, è quotato 3,10. L'X invece è a 3,20. Il 2 con il successo della Torino è quotato 2,35. Alle 21.05 la Fiorentina già nettamente prima nel suo gruppo, attende i bielorussi della Dinamo Minsk al Franchi. L'1 è quotato 1,37, l'X è a 4,50, il 2 invece è quotato 9. Chiudiamo con il Napoli che deve provare a centrare il primo posto del suo girone. Al San Paolo arriva lo Slovan Bratislava. L'1, il successo del Napoli, è quotato 1,15, l'X è a 7,50, il 2 con il successo degli slovacchi è quotato 18. Questa era l'ultima delle quote snai di oggi. Noi ci risentiamo domani. Tutti convocati. Io credo che lui ha detto quello che deve dire, è un lavoro di squadra, certo, 100% dobbiamo lavorare tutti insieme per raggiungere gli obiettivi, ma chiaramente l'allenatore e i giocatori più importanti devono essere davanti, così gli altri ti possono seguire. Ho visto Juve Atletico e ho visto Liverpool Basilea, ho visto tutte e due e alla fine io da qua non posso fare nulla, così sono tranquillo, perché può succedere che anche possiamo giocare contro Liverpool se il sorteggio dice che dobbiamo giocare contro loro. Cioè, per me è meglio non dire nulla, così sono più tranquillo. Sì, questo è senz'altro, anche se è una partita che non conta perché è fine della classifica, comunque ci saranno giocatori che hanno giocato meno, giocatori che vengono da infortuni, quindi hanno bisogno di giocare, mettere dei minuti nelle gambe e che possono essere utili nelle prossime partite, quindi è una gara comunque importante. C'ho talmente tanta voglia di qualificarmi che non vedo l'ora, non solo di qualificarmi, ma tutti dicono se ti qualifichi potresti pescare Tizio Caio. No, io voglio pescare qualcosa di importante, perché questo per me è libidine, questo per me è piacere, questo per me è emozione, questo per me è gratificazione per loro, questo per me è... Andiamo a vedere chi siamo e cosa sappiamo fare. Questo la vedo così. Tifo più Roma, sperando che il City arrivi quarto, come ho detto anche altre volte, c'è anche questa possibilità, no? Quindi magari la Roma può passare da seconda e il City quarto, sarebbe ottimo per noi. No, nessuno delle due vorrei incontrare. È prematuro, sinceramente veramente prematuro, dipende chi ti capita e poi ci penseremo al momento debito, insomma, se capiterà e quando capiterà. Per ora non è una domanda che mi sono posto, poi sarà il campo a parlare come sempre. Preview di Europa League di oggi. Beh, Montella un po' l'ha tirata alla sua vecchia Roma, ovviamente la conferenza stampa ieri è stata prima della partita dei giallorossi e com'è andata lo sapete. Poi abbiamo sentito Benitez, già qualificato da primo, questa sera saranno quattro gatti al San Paolo a vedere Napoli, Slovan, Bratislava contro la squadra che fu di Amsic. La Fiorentina, anche in questo caso già qualificata, gioca in casa con la Dinamo Minsk e l'Inter con un sacco di primavera, l'Inter estremamente verde alle 18 in Baku, in Azerbaijan, contro il Karabakh. Giocheranno titolari Bonazzoli, Baldini, Crin e compagnia cantante, sarà un'occasione per vederlo in campo, e ovviamente il Torino, cui ci aggrappiamo tutti quanti, che giocherà alle 19 a Copenaghen, girone estremamente complicato ancora da decifrare. Al Torino si chiede una vittoria contro l'unica squadra finora eliminata certamente in questo girone. Copenaghen non ha più nulla da dire, non può più raggiungere la qualificazione, mentre c'è il Bruges che riceve l'Helsinki e sono due squadre, Bruges che fino adesso è in testa al girone 9 punti, il Torino ne ha 8, quindi tutto da definire e speriamo che dica bene al Toro. Molto bello il discorso che fa Ventura, ampiamente condivisibile. No, io voglio viverla fino in fondo, voglio qualificarmi, poi magari datemi il Liverpool. Enrico da Roma, buongiorno. Ciao Carlo. Ciao. Ciao, io sono uno di quelli che fa i salti mortali per ascoltarvi. Grande. Ascolta, io volevo dirti questa cosa. Ho sentito prima, parlavate con Pierluigi e con De Pasta, no? Del discorso del capello. probabilmente è stato quello che è riuscito a gestire l'ambiente sì. Roma e arrivare al campionato. Io sono di Roma, sono tifoso juventino, ma sono di Roma, quindi vivo in osmosi con, no, con questo ambiente. Cosa ne pensi delle parole di Nedved? Di risposte ai romani ne abbiamo già date tante, parliamo di meno di loro, ma lavoriamo di più e i risultati si vedono. Sì, ma quello che facciamo è quello che facciamo sempre, Carlo. Tu immagina la mia difficoltà a vivere da juventino a Roma. Io sono proprio bistrattato in qualsiasi posto, in qualsiasi bar, in qualsiasi ristorante. E ne ha detto, secondo me, ha detto una cosa giusta. Però riguardo al discorso di Capello, sì. Io vorrei ricordare però che Capello, l'anno che ha vinto lo scudetto a Roma, non ha gestito bene l'ambiente, perché lui, secondo me, è un pessimo gestore di ambienti. E ci sono le cronache, no, che parlano di queste cose qui. Capello quell'anno lì aveva dei super campioni. Aveva dei super campioni. Perché c'era Totti, Batistuta, Montella. Senza la squadra dei giocatori dei campionati non li vinci, cioè senza una grande squadra, cioè, non vinci i campionati. Il Milan di Capello, che giocava malissimo, vinceva perché aveva i super campioni. Non è la gestione d'ambiente, perché l'ambiente Roma non va gestito. Se a Roma porti i giocatori buoni, vince anche la Roma. La qualità, lui dice spesso che il campionato italiano non è allenante. Allora io ti posso dire questa cosa qui, secondo il mio giudizio personalissimo, quindi potrebbe essere anche sbagliato, il discorso che la qualità media del campionato italiano è bassissima, perché la mia Juve l'altra sera, giocando con l'Atletico Madrid, ha fatto secondo me una pessima figura, veramente pessima, perché l'Atletico proprio si è difeso con la sigaretta in bocca. Se avesse avuto invece buonissimo Pereira sulla tre quarti e gli Steiner sulla destra, avesse avuto Mata e Dani Alves, ma martedì faceva tre gol a Juve. Ma perché sì. Comunque il livello del campionato italiano è bassissimo. Ma possiamo discutere di un sacco di cose. È vero, non è più l'epoca delle sette sorelle, dei campioni sparpagliati in ogni squadra, non è più l'epoca del grano facile per tutti, questo lo sappiamo, ma è quasi un luogo comune. Poi è altrettanto vero che Ancelotti non sarebbe in grado di vincere la Champions League con una squadra scarsa, che Mourinho non è in grado di vincere un campionato con una squadra scarsa. Questo è evidente, cioè lo stesso Atletico Madrid non ha vinto il campionato spagnolo, non ha vinto la Liga l'anno scorso per caso, ha vinto la Liga perché aveva fior di giocatori, una squadra costruita con grande intelligenza, con grande perizia, con grande abilità, però era una squadra di livello, tanto che ha fatto la stagione che ha fatto, e quest'anno c'è stato un ottimo ricambio, sta provando non è a livello dell'anno scorso, ma sta provando a ricostruire comunque una squadra estremamente competitiva. È evidente che ti servono i giocatori per vincere le competizioni, ma io credo che la Roma in questo momento, dal punto di vista dell'organico, ha avuto un sacco di infortunati, siamo d'accordo, ma dal punto di vista dell'organico al completo, c'è una squadra estremamente competitiva, quantomeno in Italia, quantomeno sul fronte interno. Poi in Europa è ancora una squadra che ha qualche difetto di mentalità e si è visto, secondo me, nella gestione di questo girone, pur approcciato benissimo. Su 12 partite, mi scrive Franco Piantanilla, su 12 partite Roma-Juve hanno battuto solo Malmo, Zesca e Olympiacos. Anche questo è vero, anche questa è una realtà. La Juventus dell'altra sera secondo me è ingiudicabile, perché è stata una partita strana e pesantemente condizionata dalla classifica e dall'esigenza di non sbagliare, soprattutto da parte della Juventus, per non rischiare più del necessario. Quindi non ingiudicabile la partita della Juve dell'altra sera. Invece possiamo dire, io continuo a sostenere il fatto che la Juventus abbia buttato via un'occasione importante all'andata con l'Atletico Madrid, quando l'Atletico Madrid non era in queste condizioni e quando è tornata con una sconfitta che poteva insomma, con un risultato che poteva essere diverso dalla sconfitta che è stata. Eccolo Filippo Maria Ricci a proposito di Spagna. Buongiorno. Ciao Phil. Buon pomeriggio dal Santiago Bernabéu, dove abbiamo appena ricevuto la benedizione florentino pontificia. Per gli auguri di Natale. Raccontami un po', Santiago Bernabéu, Brindisi natalizio. Cosa per me, diciamo, io lo stavo un po' aspettando lì nel mirino, sì. Nemmeno una parola sull'allenatore. Cosa deve dire? Niente, perché di solito per tre anni, nei Natali 2011, 12 e 13, c'era sempre la frase: tenemos al mejor entrenador del mundo, cioè abbiamo il miglior allenatore del mondo. L'anno scorso questa frase non l'abbiamo sentita e quest'anno nemmeno. Però quindi, intanto quello che non è il miglior allenatore del mondo ha fatto 19 su 19, il tassametro corre, potrebbe essere il record mondiale. Il record, la decima e tutto, però non si è guadagnato ancora la qualifica. deve fare per guadagnarsi la qualifica? Spiegamelo tu. Non lo so, è possibile. Io probabilmente chiedere molti più soldi a Florentino Perez, che magari glieli dà anche, però sì, gli darà i soldi ma non la qualifica, secondo me. Eppure guarda, ne parlavamo ieri con Pardo, non la molla. Ne parlavamo ieri con Pardo, questo Real Madrid ha l'aria di essere davvero un progetto compiuto, cioè dove tutti i tasselli sono andati al posto giusto, e quello che non è il miglior allenatore del mondo, secondo me invece lo è, almeno nella gestione di un grande club, perché questo è un lavoro particolare e lui lo sa fare in maniera migliore. L'altro giorno parlavo con Santi Solari, che è un grandissimo, molto simpatico, grande, insomma, persona molto intelligente, uomo di casa. Dice quanto rido quando sento, dice, Del Bosco o Ancelotti, dice, sono dei grandi gestori. Certo, perché loro arrivano lì la mattina, aprono l'ufficio, si siedono e poi dopo la sera lo chiudono. Dice, questi è gente che deve prendere milioni di decisioni, sì, sì, tutti i tipi, con gente che guadagna milioni di milioni, lasciarla fuori, metterla dentro, spostarla, farla giocare in un modo in un altro, dice, e tu me lo chiami gestore? E così è questo il discorso, voglio dire, cioè, Carlo ha fatto un lavoro spettacolare. Ieri l'altro giorno è stato divertente, se non è stato onesto, quando dice dopo quando perse con l'Atletico, che aveva perso, aveva fatto una vittoria su cinque con tre sconfitte, e gli dico, ma lei pensava di poter fare 19 vittorie? Lui si è messo a dire, però sicuramente pensavo di poter correggere alcune cose. E questo è, lui ci ha sempre creduto a questa idea di far giocare tutte queste mezze punte, perché appunto sempre nuovo con Solari faceva paragone con Real Madrid del 2002, no? Uh-huh. Quello che ha vinto l'ultimo, sì, mondialito, e lì c'era, no? E nella finale di Champions gioca Makelele, da solo, circondato da tutti, da tutte le mezzali, i trequartisti, gli attaccanti. Esatto, cioè, figo, Zidane, Raul Morientes e Solari. Però giustamente Solari faceva, dice, però occhio, perché ero io quello che, io ho fatto tutto l'anno in Champions accanto a Makelele, cosa faticosissima, e così un po' come fa Isco oggi. Però dice, a volte il campione fa fatica a capire, può ancora migliorare se fa quello che uno gli chiede, ed è quello che sta succedendo adesso. E Carlo ha un merito eccezionale. Non possiamo dimenticarci, no, ma poi scusa, punte o punte, insomma, no? Non dimentichiamoci che Ancelotti, che è anche molto intelligente nell'essere aziendalista al punto giusto, non dimentichiamoci che Ancelotti fu quello che si inventò, per ragioni di Stato, per convinzione, per quello che vuoi, il centrocampo del Milan, che poi vince la Champions League, dove c'era Pirlo, Seedorf, poi c'era Rivaldo, poi c'era Shevchenko, poi c'era tutta questa gente. Ma come ottieni questo? Convincendo il campione a rinunciare a qualcosa di suo, hai capito? Cioè lui gli dice, si può anche correre, si può anche fare un altro tipo di gioco, e si può migliorare, cioè dice, Isco adesso è molto meglio di quello che era prima, quando faceva solo, diciamo, il 10 o il trequartista o la mezza punta. Ora è un giocatore completo. Questo adesso anche, a livello internazionale, stiamo parlando di un altro giocatore, questo deve ringraziare Ancelotti. Non è che gli dice, no, devi metterti a correre, lo metti sul tapirulan in palestra. No, è che qui si migliora, come c'ha dei meriti enormi, Certamente. Beh, ma d'altra parte, altro esempio, Mourinho è l'allenatore che ha convinto tu a giocare terzino, per ragioni di Stato, esatto, no? E quindi il grande allenatore ottiene questo del grande campione. Storia, va benissimo, certo. Sì, è un buon esempio che a me piace. Vedi? È chiaro che se devi parlare di bel calcio non è una bella mossa, però ti serviva. L'Inter era qualche annetto che non vinceva la Champions, l'ha vinta così e va bene così. Insomma, l'importante alla fine è il risultato è fondamentale. Per cui va bene, certo, è diverso. Però dico, in questo caso c'è anche il fatto che questo Madrid gioca molto bene, divertente, vince. Certo è che poi vedi, la curiosità è solo a due punti dal Barcellona in tutto questo, no? Sono di una serie di vittorie e tutto quanto, però poi il distacco è relativo, quindi poi i conti si fanno alla fine, no? Barça dello spernacchiato Luis Enrique, ieri grande partita con il Paris Saint Germain, mi è piaciuto, lì ti racconto una cosa che è veramente, invece i catalani assolutamente critici, Cioè, veramente questi sono veramente, hanno la sindrome di Stoccolma, cioè, con Stoccolma rappresentata da Guardiola che li ha rapiti, loro sono innamorati del rapitore e pensano cioè, che tutto quello che non sia il Barça di Guardiola non è bello abbastanza. E non si sono resi conto che questa è una squadra che aveva tanti dubbi. All'andata aveva preso una bella mazzata a Parigi, e arrivando lì con 6 vittorie, un pareggio, 0 gol subiti, ne ha preso 3 tutti insieme. Ieri era una partita complicata perché bisognava arrivare primi è importante a questi livelli. Ieri hanno fatto una bella partita, è chiaro, con qualche lacuna, ogni tanto ballavano un po', però bello, insomma, ci ha provato, ha avuto un'idea. Niente, lì no, però insomma non giochiamo così bene come dovremmo giocare. Capisci che il calcio sì, no, ma sono oramai abbiamo imparato a conoscere, no? Anche a volergli bene nelle loro esagerazioni, anche mettere insieme Neymar, Messi e Suarez mica facile, anche mettere insieme Neymar, Messi e Suarez mica facile, esatto, è quello, cioè, anche ridare stimoli a Messi, cioè Messi ha fatto 10 gol nelle ultime 5 partite, no? 3 triplette, una che non ha segnato, e ieri un altro gol. Guarda che 7 le ha fatti col destro, e questo già, se per caso avessimo ancora la possibilità di parlare dei calciatori, ogni tanto glielo chiederei, no? Perché magari non è casuale, insomma è strano, no? Che non è il suo piede, fa 7 gol su 10, ma dico, gli ha ridato voglia, anche questo non era scontato. Noi abbiamo detto un Messi abbastanza bullico, no? E Neymar ha già fatto quasi gli stessi gol che ha fatto l'anno scorso, 18 rispetto a 19 dell'anno scorso, lo scorso in tutta la stagione. Questo è una squadra complessa il Barcellona, e secondo me Luis Enrique ci sta provando, almeno. Poi è chiaro che può fare i suoi errori, però ieri ha provato a fare qualcosa e gli è andata bene, a me è piaciuto. Una cosa sola, tu l'ho sentito prima quando parlavi un po' delle italiane, sì. Ma io penso che in Italia ci sia paura a giocare in Europa, cioè questo è il grande limite, perché tu parlavi della Juventus qua a Madrid, no? Sì. Io ero in tribuna al Calderone. Sì. La Juventus aveva paura, la Juventus non ha mai voluta vincere quella partita. Ma infatti, ma quello che dico io, non stiamo tanto a parlare della. Ma tu non puoi avere il Manchester City senza Agüero, Yaya Touré, Company, certo. Ma quando ti ricapita? Ma quando ti ricapita, giochi in casa, non hai particolare pressione, e quello è un obiettivo da prendere, cioè quello è un risultato da conquistare. Cioè, io sono molto critico nei confronti della Roma di ieri sera. Sono preoccupato per il calcio. Vogliamo fare parliamo dei grandi sistemi del calcio italiano. Sono preoccupato per questo, per la mentalità. Cioè, abbiamo paura di andare in Europa. Adesso, ieri, perché lì i romanisti che cantavano, vinceremo tutto, certo. No? Benissimo, no, dovete vincere l'Europa League, cioè con tutto che ci sono altre 4 squadre italiane, non me ne vogliono gli altri, però dico in generale il coro era quello, perché l'Europa League ti manda in Champions, e perché in generale è parte è un pezzo di Europa, cioè noi invece in Europa non sappiamo più giocare, adesso vediamo, siamo con 5 squadre in Europa League, speriamo di portarla a casa. Sì, curioso che abbiamo in Europa League abbiamo anche degli allenatori. Garcia non è un allenatore italiano, quindi è anche difficile spiegare questa italianizzazione di Garcia dal punto di vista Benitez uguale, è anche uno. Lui non lo sa, però è italianissimo. È italianissimo, però che esperienza di Roma. Mancini comunque è un allenatore internazionale. Vabbè, non è ancora allenato, cioè è appena arrivato, dai, il povero Mancio. Però sì. Ma capite, la mentalità che non si può andare a avere tutta sta paura. No, ma io dico la partita, allora al Calderon la Juventus ha giocato una pessima partita, sono d'accordo. Non mi rilassi di perdere. Vabbè, ma se non hai mai provato a vincere, puoi pure rischiare di perdere a un certo punto. Ma certamente, come è successo alla Roma ieri sera. D'altra parte, io credo sia ingiudicabile invece la partita dell'altra sera, quella della Juventus, perché sì, però vabbè. Lì, lo so, lì c'era la grande paura. La grande paura che ha fatto 0-0, come normale che sia, no? Sì, però prendi un gol e vai fuori. Lì stiamo parlando un po', se vogliamo ci adorniamo un po', chiedere una Juventus d'attacco lì, ok, posso anche non essere... Però in generale mi avrebbe fatto piacere, perché io mi fatto un po' dopo la conferenza stampa, dopo la partita prima dell'Atletico, Allegri ha detto sì, adesso cercheremo il 2-0, così, e io un po' ridevo, dico, ma siamo sicuri? Dico, perché se no non lo cerca assolutamente il 2-0, infatti non l'ha cercato. Però appunto, l'hai anche detto in conferenza stampa, provaci. Io vedo, siamo veramente attaccati dal miedo, il miedo scenico, come si diceva, sì, del Bernabeu, la grande paura di questo dell'Europa, di questo grande palcoscenico. Va a finire così, che alla fine abbiamo alla seconda fase di Champions League lo stesso numero di squadre di Portogallo, Svizzera e Ucraina, cioè una, esatto, la Juventus, il Napoli è andato fuori con l'Atletico Bilbao, che poi abbiamo visto in Champions League non benissimo. No. E continuo a pensare che il Napoli valga almeno due volte l'Atletico Bilbao dal punto di vista dell'organico, e con una Roma girone difficile, d'accordo. Ma come ha giocato il Napoli con l'Atletico? In maniera pessima. D'altra parte è stato lo stesso Benitez a dichiarare in conferenza stampa: vabbè, se non passiamo non è un dramma, non è una tragedia. Allora tutto a posto, cambiamo lavoro. No, ci fanno tutti i drammi, però su questa cosa serie non è mai un dramma. Esatto. A me, io questo non riesco a capirlo, insomma. No, prima ho sentito anche Baldissone a Roma, qui a Roma c'è l'abitudine di fare dei drammi, eccetera, eccetera. Io dicevo, tra il fare dramma, che non è il caso mai nello sport, eccetera, e una sana incazzatura quando dici dovevo passare il turno e non l'ho passato e avevo il match ball in mano, anzi ne ho avuti due, uno a Mosca e l'altro in casa con un City ridotto ai minimi termini, allora secondo me il City, se tu mi dici il City al completo, è chiaro, è superiore alla Roma, spende milioni di milioni e va bene così, ma ieri era una squadra fortemente rimaneggiata, cioè i suoi uomini gliene mancavano, uno per reparto, capito? Gliene mancava uno per reparto e due e mezzo, perché gli mancava anche Silva, insomma. Certo. No, ma poi su questo spende milioni di milioni, allora City con l'Atletico Madrid non si mette neanche. Cioè, voglio dire, l'Atletico Madrid non gioca col Bayern, non gioca col Real, non gioca con un sacco di squadre, Roma compresa, Napoli compreso, Juventus compresa. Quindi, detto questo. È questo, insomma, il discorso. Io l'ho visto ieri col Barcellona, doveva vincere, ci ha provato. Ha fatto una strada molto offensiva e così lui diceva, la frase di Luis Enrique mi piace, dice: ho provato a mettere più giocatori possibili che potessero far male, questo è il concetto. Poi è chiaro che hanno ballato, perché lì Mathieu con Lucas Moura vanno sotto 1-0, però non importa, hanno rischiato, ha sbagliato un altro gol Lucas Moura, sono lì e alla fine portano a casa un 3-1, anche perché poi c'è i giocatori bravi davanti e giochi per loro. E il povero Totti, cosa sapevi a fare, no, in quelle condizioni così? Se giochi in quella maniera, poi Totti non ti serve. Certo. Non lo so. Totti non ti serve, comunque non ti serve, magari Totti per tutta la partita, per il tempo molto lungo che ha giocato ieri sera. Toglimi un'ultima curiosità, Filippo, ma perché Blanchir ha levato Verratti, che stava giocando una partitissima? Vabbè, anche lì, perché fa qua tutti i fenomeni, ha tolto Verratti, poi ha tolto Matuidi, ha messo Pastore e Lavezzi e dopo sembrava all'oratorio, penso, con tutto rispetto per l'oratorio, ma mica si gioca così. Infatti poi è bello che lascia, se deve lasciare quello, lascia Thiago Motta, che era quello più in difficoltà, che poi c'è più anni e più acciaccato e tutto quanto, e lì non c'è proprio, ha proprio sbagliato, insomma. Poi Verratti, ecco, anche lì io penso, quando lo vedo giocare ieri al Camp Nou, una partita maestosa, insomma, per personalità, e noi però ci abbiamo di no, ma non si sa se deve giocare nazionale, ma sì, vediamo, forse lo portiamo, ma lo teniamo in panchina, perché il ragazzo si deve fare. Dopo la prima partita l'abbiamo tolto, no, avevamo vinto, la seconda partita non l'ha giocata, no, ma vabbè, allora va bene così. Del resto, Verratti in Serie A non ha mai giocato una partita. Certo, ma sai com'è da noi? Qui no, i giovani, i giocatori italiani non giocano, non hanno diritto di cittadinanza. Tu lo sai perfettamente, quindi è inutile star lì. Ciao Phil, grazie. Ciao cari, ciao. Ciao, ti abbraccio. Grazie. Filippo Maria Ricci. Tutti convocati. L'apertura a altri possibili partner riguarda esclusivamente la realizzazione dello stadio, quindi è un'operazione che può essere valutata solo con queste condizioni. Io ritengo che per una società come il Milan lo stadio di proprietà sia un passaggio fondamentale. Ovviamente noi amiamo San Siro, è uno stadio meraviglioso, storico, soprattutto che ci lega ai ricordi più belli e a fortissime emozioni. Nonostante questo, il calcio è un mondo che sta evolvendo, cambia con grande rapidità, e di conseguenza il nostro desiderio è quello di poter a breve annunciare ovviamente un passaggio di questo tipo. Tuttavia non è semplice in Italia portare a termine queste realizzazioni. C'è un grande sostegno in questo momento da parte di tutte le istituzioni, quindi, perché si ritengono appunto che questa possa essere un'operazione importante non solamente per il Milan ma per tutta la città di Milano. Allora, queste erano le parole di Barbara Berlusconi alla conferenza stampa del rinnovo della sponsorizzazione milionaria, ricordiamo 100 milioni per 5 anni con Fly Emirates. Ora un altro passo, si legge oggi, si sente oggi, altro passo decisivo verso la realizzazione di uno stadio del Milan. Vi leggo dalla Gazzetta dello Sport: Barbara Berlusconi ha appena compiuto un passo fondamentale per l'intesa con Fondazione Fiera Milano e il suo staff ha definito dettagli per l'impianto che sorgerà al Portello in un'area da 60.000 metri quadrati di fronte a Casa Milan, cioè la nuova sede rossonera. Sarà uno stadio da 42.000 posti, correrà fino a 15 metri sottoterra per adeguarsi ai vincoli urbanistici. Sarà insonorizzato per convogliare sulle tribune l'effetto acustico. Tutti aspetti innovativi che hanno convinto Emirates appunto a dare il nome allo stadio, con un investimento di sponsorizzazione significativo. Si parla anche di tempi di realizzazione dello stadio, inizio dei lavori nel 2016 e inaugurazione, l'obiettivo di inaugurazione tra il 2019 e il 2020. Dunque continua a marciare questa idea di uno stadio, ora si conosce anche dove, come e quando. Vedremo se riusciremo a vedere davvero l'inaugurazione dei lavori per il 2016, perché io sugli impianti nuovi in Italia continuo ad essere diffidente in una maniera totale. Alberto D'Ancona, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Dica, buongiorno, dica. Allora, no, io volevo dire sulla questione del, voi parlavate prima sul calcio italiano, sulla Roma e sui grandi campioni del Manchester City. Io credo che è vero che alle squadre italiane manchi un po' di coraggio per cercare queste vittorie, ma anche è vero che anche se mancava Agüero c'era uno Zeko, e uscito Zeko entra uno Jovetic che mette sicuramente in difficoltà questi tipi di organici a quello che è il patrimonio del calcio italiano. Quindi è vero, osare è importante, osare sempre di più, ma è difficile quando si ha a che fare con rose da 300-400 milioni di euro, con delle qualità anche a livello di sostituti. Va bene Alberto, però posso dire due cose. La prima è che se facciamo un ragionamento di questo tipo, l'Atletico Madrid non scende neanche in campo nella scorsa Champions League, altro che arrivare in finale. Non gioca nemmeno, non si mette nemmeno a giocare con il Barcellona e il Real Madrid. Certo. Quindi, no, ma sicuramente quindi, io sono il Borussia Dortmund all'inizio del progetto non si mette nemmeno, no, a giocare con questi. Se ne facciamo una questione di fatturato, di puro e semplice fatturato, allora queste squadre non si mettono nemmeno. Io sono assolutamente per il rilancio del calcio italiano a partire dai giovani. Voi avete parlato di Verratti, partire dalla primavera, e quindi è importantissimo, è fondamentale, quindi che una squadra, sia da una piccola, media o grande squadra, investa e continua a investire soprattutto sul patrimonio giovanile. Però è vero anche che ieri, prendendo il discorso di Manchester City, non era a disposizione Agüero, entra Zeko e poi sostituito da un certo Jovetic, quindi che non cambia di un centimetro o di un milligrammo alla qualità della squadra, diciamo. Sì, poi è anche vero che ha ragione Filippo Mariarici quando dice che il Manchester City, senza la sua superstar che è Agüero, senza Touré, che comunque è quello che gli tiene in piedi grosso modo il centrocampo, senza Kompany, che è il migliore di una difesa che a me non piace per nulla, perché De Michelis, ne parlavamo anche ieri, non è mai stato un drago e non lo è nemmeno adesso che con l'età avanzata, era un, secondo me, un Manchester City battibile. È un Manchester City che comunque nelle ultime 4 stagioni ha preso solo schiaffoni in Europa, 3 eliminazioni al primo turno l'anno scorso agli ottavi, e adesso ha passato il turno battendo il Bayern di Monaco e vincendo a Roma, che è stato un grande risultato. Detto questo, anche la Roma ieri, e anche di questo parlavamo prima, aveva in panchina Iturbe, che è il pezzo pregiato del suo mercato, pagato un sacco di soldi, poi non sta giocando a buon livello e lo sappiamo bene. Aveva in panchina De Rossi, che è il giocatore più pagato del calcio italiano, il giocatore italiano più pagato che c'è nel nostro campionato. Aveva in panchina Destro, aveva in panchina De Rossi, aveva in panchina chi altro aveva in panchina, no, non mi ricordo più quello che stavo dicendo, però aveva una signora, la Roma ha una profondità certamente degna di un buon palcoscenico europeo, quindi non stiamo a raccontarci. Pjanic lo vuole tutta Europa, un giorno diciamo che Pjanic lo vuole tutta Europa e il giorno dopo che è uno scarpone. Nainggolan è uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato. Manolas, abbiamo detto dall'inizio che Akebravi andranno a prendere perché sarà ha tutte le potenzialità per diventare un grande giocatore. Ljajic è uno che ha talento. Gervinho ce lo individuano a questo punto da tutte le parti. E allora, cioè, la Roma non mi sembra così depressa dal punto di vista dell'organico. Maurizio, provincia di Novara, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo proprio rientrare in questo argomento e vorrei anche riallacciarmi un po' al discorso che avete riproposto, quello di Barbara Berlusconi. Da juventino magari viene facile la cosa, però vorrei fare un plauso a quello che è la progettualità poi alla fine della Juventus, perché alla fine poi tutti quanti ritornano lì su questi discorsi. Sentiamo che la Roma vuole lo stadio di proprietà, l'Udinese, il Milan. Sono tutti passi che devono essere fatti un po' alla volta, così come il discorso che facevate voi, sacrosantissimo della mentalità in Europa. Non è un qualcosa che si ottiene magari da un giorno all'altro, ma va costruito anche con le sconfitte. E purtroppo il calcio italiano è un po' in una fase dell'anno zero, quindi un po' alla volta deve essere ricostruito e deve avere la possibilità anche di farsela questa mentalità europea. Condivido tantissimo l'idea che la Juventus a Madrid è andata lì con tantissima paura, però questo qua, se non lo si fa prendendo anche degli schiaffoni in Europa, purtroppo non si cresce da nessun punto di vista. Sì, ma io mi ricordo però un'epoca in cui avevamo anche delle squadre di eccellente livello europeo da un punto di vista dei nomi, eppure andavamo in Europa a giocare con enorme paura. Il motivo non esisteva di fatto. Ricordo la Juventus di Trapattoni, ricordo anche la Super Juventus che perse quella famosa finale con l'Amburgo, con tutti i campioni del mondo, più Platini e Boniek. C'è stato un lungo periodo del calcio italiano in cui, nonostante ci fossero in quel momento campioni e ci fossero anche denari, si andava in Europa a giocare con paura. Poi io continuo a pensare che la vera rivoluzione l'abbia fatta il Milan degli olandesi, che aveva i soldi, una super squadra e un allenatore che era Arrigo Sacchi, che ha portato insieme a un gruppo di super giocatori una mentalità differente. Da lì è iniziata un'altra stagione in cui abbiamo fatto incetta di coppe, in cui avevamo un sacco di soldi da spendere, in cui eravamo belli, fighi, ricchi, avevamo tutto il mondo ai nostri piedi, e poi è cominciata una discesa che è stata tendenzialmente economica. Quindi è una questione di fasi. Certamente, andiamo a giocare in Europa con grande paura addosso, e anche la Roma di ieri sera, torno a ripetere, secondo me è stata da questo punto di vista deludente, perché ha avuto in questo girone al contempo una certa dose di presunzione e molta paura, anche e soprattutto nella partita di ieri sera. Tutti convocati. Complimenti al mister e tutto il suo staff e ai giocatori, perché arrivare a passare turno è il nostro obiettivo vero, ma ci siamo riusciti, anche se devo dire che non è stato facile, ma sono stati tutti veramente molto bravi. Forse si vede un percorso di crescita dove la squadra si vede che sta acquistando delle inconsapevolezze sul campo. Io credo che noi possiamo ancora migliorare, e credo che i ragazzi lo faranno, perché ce ne sarà bisogno. Nei ottavi incontreremo sicuramente una squadra forte, perciò tutto da giocare, e io sono contento per loro che possano giocare queste partite. No, è difficile dire, sappiamo che ci sono tre o quattro squadre magari oltre le nostre possibilità, però nel calcio non parte mai battuto, perciò qualsiasi cosa, qualsiasi obiettivo è raggiungibile. Poi dipende ovviamente in quale forma ci presenteremo a fine febbraio, però credo che la squadra è convinta e lo si vede sul campo. Questo Pavel Nedved, dopo commentando il cammino europeo della sua Juventus, in effetti Real Madrid, Real Madrid, Bayern Monaco, Chelsea e Barcellona sono onestamente irraggiungibili per i bianconeri, almeno credo, mentre penso che Monaco, Borussia Dortmund e Porto, insomma, potrebbero dare alla Juve qualcosa in più degli ottavi di finale, potrebbero aprire alla Juve qualcosa in più degli ottavi di finale. Francesco, provincia di Brindisi, buongiorno. Buongiorno, non è la prima volta che chiamo, dottor Genta. Volevo solo dirvi, fare una constatazione. Per quanto riguarda la Roma, che l'allenatore Garcia, penso che l'avrà capito perché è un furbone, nel senso buono, che non far giocare Totti, tutti gli altri allenatori che hanno allenato la Roma prima, hanno fatto una brutta fine. Ora, vedendo le interviste di ieri, prima della partita, hanno detto tutti i tifosi della Roma che vinciamo 3-0 tripletta di Totti. Insomma. E questo l'ha detto il presidente, l'ha detto Pallotta. Pallotta, no, ma anche i tifosi li ho sentiti io. Sì, sì. Alla faccia della scaramanzia. Voglio dire che se i tifosi proprio stravedono per Totti, che mi sembra anche giusto, voglio dire, e poi costringono l'allenatore, secondo me, a far giocare la Roma senza una punta di peso, tipo aveva Destro, aveva Borriello. Borriello ormai è fuori dalla rotazione di questa squadra, neanche se sono infortunati tutti gli altri. No, ma a proposito di profondità, appunto, lo pagano e non pagano neanche poco. Ma dicevo, prima mi dimenticavo quell'altro che ho visto in panchina ieri sera, Strootman, che vuole Manchester United, tutto il mondo vuole. No, ma non mi sembra che la Roma sia, dal punto di vista dell'organico, una squadra così spiegata. Non è nemmeno una squadra che costa poco, perché è una squadra che sta investendo molto in ingaggi, in giocatori, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, con il City di ieri se la poteva giocare, questo sono convinto. Poi, per quanto riguarda Totti, caro Francesco, cosa vuole che le dica? È evidente che la gestione di questi giocatori, dal punto di vista anche dell'opinione pubblica, della pressione che mettono addosso ad un allenatore, è complicata. Valeva per Del Piero a Torino, vale per Totti a Roma. Non sono giocatori che si arrendono facilmente alla panchina, perché Totti è uno che se lo lasci fuori gli girano ed è inutile far finta di niente. D'altra parte c'è stato anche qualche screzio con Garcia di recente per sostituzioni non proprio gradite e così via. Quindi con questa situazione devi fare i conti. Poi ripeto, io sono un tottiano da prima ora e Totti rimane comunque un fuoriclasse assoluto, certamente. Dal punto di vista strettamente tecnico probabilmente servirebbe una gestione diversa di un giocatore che, come scrive oggi Mario Sconcerti, ieri sera sarebbe stato decisivo con 5 anni in meno sulle spalle. Quindi a questi ritmi e con partite di questa intensità fisica, insomma, Totti purtroppo fa fatica a stare in campo, abbiamo avuto un'altra prova. A proposito, c'è un'altra cosa interessante che scrive Sconcerti, non so se la condividete o no. A proposito di Pjanic e Ljajic, scrive questo: il problema è che Pjanic e Ljajic, come quasi sempre gli slavi, si avvicinano al fuoriclasse ma non lo diventano mai. Ne abbiamo visti a decine incantare, risolvere, ma non insistere e non continuare. Dunque ne fa una questione anche di... in parte è vero, perché fuori classe slavi ne abbiamo visti non tantissimi, almeno dal punto di vista della qualità. Certamente ad esempio Boban, certamente ad esempio Savicevic. Facendo questo discorso mi viene in mente Kovacic, che all'Inter ritengono il tesoretto di famiglia, però continua ad essere un giocatore che non riesce ad incidere in maniera decisiva. Ma a suo favore parla ancora un'età verdissima, però il discorso mi sembra più o meno questo che viene fatto per Pjanic e Ljajic, con Pjanic che si è già consacrato a livelli ben superiori rispetto a Kovacic e allo stesso Ljajic. Giordano Sassuolo, buongiorno. Buongiorno, senti, io vorrei fare presente una cosa, mi riferisco a Sassuolo, tutti giovani e tutti italiani, e avrebbe vinto a Roma 2-0, perlomeno stava vincendo, no? Senza entrare in polemica il perché non ha vinto, roba del genere, facendo giocare dei giovani e italiani, secondo me qualcosa che abbiamo non è necessario, perché la grande Roma era stata umiliata fino a quel momento lì. E quindi il fatto che vincono solo i soldi, sì, vincono anche i soldi, ma non vincono solo i soldi. No, ma sono d'accordo. Cioè, io continuo a ripetere che poi sul campo non presenti l'estratto conto, ma vai a giocare a pallone. Soprattutto nel calcio possono succedere cose di questo tipo. Poi è evidente che punto primo, il Sassuolo sta facendo una stagione incredibile, miracolosa, bravissimo Di Francesco, altro allenatore italiano a completare questo panorama di italiani, ha giocatori di talento ma che conosciamo ormai bene, no? Zaza, cioè, è titolare della nazionale, Berardi è comunque un giocatore di grande talento, monitorato dalla Juventus che ne detiene i diritti e dalla stessa nazionale, quindi non sono frilli qualunque, però in questo momento il Sassuolo è una brutta gatta da pelare per tutti quanti, e a Roma ha giocato una signora partita, e a Roma, se diciamoci la verità, se la Roma non aveva gli aiutini del caso, probabilmente da quel buco non usciva, e il danno dal punto di vista della classifica per i giallorossi sarebbe stato ancora peggiore. Sono molto curioso di vedere quale sarà la reazione invece ora della Roma in campionato, l'aspetto una partita tutt'altro che semplice. La Roma aveva, dico la verità, mi aveva illuso nella partita con l'Inter, in quel 4-2 della domenica sera, con la seconda partita di Mancini con i nerazzurri. Mi sembrava una squadra più viva, più brillante, che ha ritrovato una condizione fisica migliore. Onestamente ora non so più cosa dire. Ho pensato che col Sassuolo, e continuo a pensare che col Sassuolo abbia pagato l'eccesso di turnover. La partita di ieri sera sinceramente mi ha lasciato abbastanza sconcertato in negativo per quanto riguarda la Roma, e non mi interessa se qual è il fatturato del Manchester City, la Roma ieri sera mi ha deluso. Franco Piantanini, autore di questo programma, Daniele Bonamici in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, ci sentiamo domani tutti convocati dopo il GR delle 2, ciao. Arrivederci e auguri di buone feste. Grazie Luca. Tu non puoi. Oh Cristo, non puoi mangiare e bere come una bestia. Tu ti stai abbuffando di pasta e di braciole, questo non lo puoi fare. Si può sapere che hai? C'è qualcosa che non funziona, eh? Che cos'è che non va? Le mie mani. Ma che dici? C'ho le mani piccole. Ce l'ho anch'io, che significa? Che anche se divento grosso, anche se batto tutti, qualunque cosa faccio, io non potrò mai combattere con John Lewis. Senti, tu sei pazzo anche solo a pensare a una cosa simile. Quello è un massimo, grazie al cazzo, tu sei un medio. Non è possibile, non succederà mai. Perché ti ci stai a rodere il figlio? Non è normale. Fammi un piacere. Che vuoi? Voglio che mi colpisci in faccia. Oh, pianta, la Jack, sei scemo, perché ti devo dare un cazzotto in faccia? Ehi, Joey, te l'ho detto io di darmelo, no? E adesso te lo ridico, forza, avanti. Vuoi che ti colpisci? Sì, mi devi colpire con tutta la forza che c'hai, voglio che mi stendi per terra, coraggio. Sei sicuro? Sì, avanti. Più forte. Mi devi dare un cazzotto come se tu mi volessi ammazzare, andiamo. Che cerchi di dimostrare? Che vuoi dimostrare? Jack?